la vita mia vicino a te. Mi scordi il mondo e tu lo sai perché. Per dirti ancora nei pochi miei che cosa sei per me. Una rosa ti vorrei per dirti quello che non sai ed in quest'ora donerei la vita mia per te. In quest'ora vive l'eternità, fammi sognare tutto dimentica, dammi l'incanto che non è per te, il desiderio che tormenta il cuore.